voglia di dormire, ma solo di partire. Per dimenticare le complicazioni della non so insistere né prevaricare. Non sono affatto violento, ma mi piace sognare. Sostienimi, attimi di trasporto, Elisa, non andare via. Non ho neanche voi di pensare, ma solo di cantare per attraversare le più perverse fantasie. Attimi di follia senza te, che farò? Probabilmente impazzirò. Attimi di sconforto, Elisa, sostienimi. Attimi di trasporto, Elisa, sapore di baci mancati e fusioni sognate, attimi fuggenti. Elisa, sostienimi. Attimi di trasporto, Elisa, non andare via. Attimi.